oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Siamo tornati. Vi siamo mancati. Tantissimo. Da morire. Oltre la crisi ritorna dopo la pausa, appunto, per la settimana della creatività. Di nuovo al mixer Willy, che non ci abbandona più, vero Willy? No, ci mancherebbe altro, anzi un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E a fianco a me Francesco Campione. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma siete creativi, quindi... Sì, siamo stati molto creativi la settimana scorsa. Non so se hai avuto modo di seguire il nostro sito. Era bello creativo, insomma. Vieni tanti... avanti creativo. A proposito di quello che diciamo sempre in questa trasmissione, quando parliamo del bello, della ricerca del bene, del bello, eccetera, devo dire che ci sono un sacco di realtà che singoli in realtà che comunque cercano di mettersi in moto per recuperare questo bello, e quindi abbiamo cercato di dargli un po' di spazio. E, oggi invece, non so se è bello oppure no, parliamo di calcio, e tu dirai, ma che ci azzecca il calcio con la nostra trasmissione? Dei mondiali di calcio? Potremmo anche arrivare a parlare dei mondiali, ma io prima di tutto vorrei parlare del Bologna in Serie B. E anche qui uno si potrebbe domandare cosa c'entra con oltre la crisi il Bologna in Serie B. Ma guarda, l'idea mi è venuta ascoltando un nostro redattore che ci raccontava un dialogo con il suo edicolante questa mattina, che diceva, un tifoso oltre che edicolante, che diceva: sono disperato per la perdita del Bologna, per la retrocessione del Bologna, che vorrei suicidarmi. E questa cosa mi ha colpita molto, perché insomma il tifo per una squadra, per quanto sentito e quanto forte, quanto entusiasta che sia, può portare a pensieri di questo tipo addirittura? Sì, se il tifo... dà la possibilità, quando il tifo dà la possibilità di esprimere forti sentimenti di appartenenza, per cui l'identità di certe persone è praticamente segnata in senso nel bene e nel male dal fatto di essere tifoso di una squadra. Cioè essere tifoso di una squadra può essere un modo per identificarsi. Chi sono io? Sono un tifoso del Bologna. Chi sono io? Sono un tifoso della Juve. Chi sono io? Sono un tifoso dell'Inter. Ma anche se in Serie B rimani tifoso di... Sì, però... Non è che si è squagliata la squadra. No, però la umiliazione della squadra si ripercuote su di me. E questa è la cosa, mi umilia. Cioè io non mi identifico più in una squadra di serie superiore, ma sono costretto a identificarmi con una squadra di serie inferiore. Cioè, come dire, io ero bello, ricco, famoso e giovane, e adesso sono sconosciuto, vecchio e povero. Torna anche un po' al discorso dell'invidia. Sì, sì, un pochino sì. Avevamo lasciato un pochino sì, perché attraverso la vittoria della tua squadra, il successo della tua squadra, c'è un effetto di trascinamento, c'è il sentirsi a propria volta vittoriosi, sentirsi a propria volta sulla cresta dell'onda, il sentirsi a propria volta orgogliosi, il sentirsi a propria volta appartenenti appunto a un gruppo che non è un gruppo di sfigati, ma è un gruppo, essere di serie B è ora appartenere a un gruppo di sfigati, per cui può essere umiliante. E l'umiliazione, certo, arrivare fino al punto di esprimere sentimenti di autodistruttività significa che in qualche modo c'è qualcosa che fa sì che quell'umiliazione sia difficile da sopportare in questa persona. Per cui può darsi che in questa persona i sentimenti di identificazione con la squadra siano andati, come dire, un tantino oltre. Allora, io intanto lancio un messaggio ai nostri ascoltatori, a prescindere dal Bologna: siete tifosi, non siete tifosi, tifosi, tifose, come vivete il vostro essere tifoso o tifosa, e come vi rapportate ai successi agli insuccessi della squadra del vostro cuore. Ecco, a proposito, squadra del cuore, anche questo è un, come dire, è un modo di dire molto diffuso. Quindi la parte emotiva è particolarmente coinvolta, addirittura quasi come se la tua squadra fosse l'innamorato, l'innamorata? Certo, certo, certo, hai centrato perfettamente la questione, cioè non è il sentimento d'appartenenza a una squadra, è un sentimento di appartenenza che va al di là spesso del calcolo, appunto ha a che fare non col cervello, ma a che fare col cuore, a che fare, per esempio, a che fare con l'infanzia, a che fare con la comunità di appartenenza, ha a che fare con le tradizioni, ha a che fare col calore che si sente quando ci si sente tutti insieme in una comunità, sono cose che, come dire, che ci sono altri modi per esprimere, per fortuna certe volte si esprimono solo col calcio, no? Perché questi sentimenti di appartenenza spesso si esprimono, come mostrano anche certi episodi di scontri tra tifoserie, si manifestano fondamentalmente attraverso l'appartenenza a un gruppo sociale che poi si rafforza nel rapporto col nemico. Per cui certe volte, in qualche modo, per esempio nell'appartenere a una tifoseria si esprimono anche sentimenti, si possono esprimere in modo lecito, in modo accettabile civilmente, sentimenti di aggressività nei confronti degli altri che non appartengono allo stesso club, che in passato si esprimevano attraverso la guerra. Ecco, diciamo che però non sempre sono civili questi atti, sono notizie di questi giorni, tutta la questione Jenny a Carogna e quello che è successo, appunto, fino all'uso di armi addirittura. Sì, esatto, quindi... perché quando tu, come dire, quando tu simbolicamente attribuisci a un gioco il carattere di gioco competitivo, di gioco che simboleggia poi in fondo una competizione e una guerra, è un po' come per le elezioni, quando ai limiti estremi le elezioni mostrano il fatto che simboleggiano lo scontro tra gli interessi, che simboleggiano la guerra. Cioè, in definitiva, quindi, nel bene e nel male, un gioco come il calcio, che rappresenta la competitività tra i gruppi, che una volta erano le bande di quartiere, che una volta erano le rivalità tra le città e così via, tra i campanili, un gioco come il calcio che rappresenta questo, quando, come dire, fallisce il suo scopo, perché i simboli non sempre sono adeguati, quando fallisce il suo scopo mostra le sue origini, cioè da modo per essere civili, slatentizza comportamenti incivili. Ma un gioco non dovrebbe, per sua natura e definizione, portare a una sublimazione di questi sentimenti di aggressività? Se la sublimazione funziona. Quando la sublimazione funziona. Cioè quando, per esempio, per esprimere, quando diventano tifosi persone che hanno un'aggressività limitata, ma se tu metti in un gruppo di tifosi una persona paranoica con un'aggressività di un certo tipo, è ovvio che il gioco non basta più, cioè bisogna in qualche modo avvicinarsi al passaggio all'atto, bisogna... Ecco, per esempio, la ricerca dello scontro con la tifoseria avversaria spessissimo è rinfocolata dalle esigenze di alcuni tifosi. Non è l'essere tifosi in sé, ma perché alcuni tifosi hanno l'unica possibilità per esprimere la loro intensa, forte aggressività, che certamente ha altre origini, che può avere origini delinquenziali, origini sociali, origini personali, appunto, di disturbi di personalità, così eccetera. Quando cerchi di esprimerla attraverso un gioco simbolico, il meccanismo della sublimazione non funziona e allora il gioco manifesta tutta la sua inciviltà. Beh, poi nel caso, vabbè, di Jenny a Carogna o persone come lui, c'è anche una sorta di senso di onnipotenza, se vogliamo dirla così, ovvero dimostrazione che io posso fermare o far ripartire un gioco, io come tifoso, come gruppo di tifosi, e quindi ho io il potere in un qualche modo della situazione. Ma lì secondo me c'è un elemento che è stato sottovalutato dal punto di vista psicologico, ed è per questo secondo me che non si riesce a contenere e a modificare quel meccanismo nel tempo, e cioè il fatto che nel momento in cui il senso di appartenenza si manifesta attraverso la tifoseria, in qualche modo un po' si regredisce, si regredisce a uno stato, un po' uno stato diciamo subumano, senza offesa per nessuno, cioè un gruppo di persone che la cui identità non è il nome e cognome di ciascuno, la storia di ciascuno, ma è l'appartenenza a un gruppo, diventa un branco. Nessun cane si identifica in un branco col suo nome, non ha bisogno di avere nomi, ma se è un branco ha bisogno di avere un capo per essere guidato. Quindi questi fenomeni che noi vediamo del tipo del delinquente che ferma la tifoseria sono fenomeni, come dire, in che altro modo si può fermare una massa amorfa e anonima se non con un capobranco? In nessun altro modo si può fermare. O quella massa esce dall'anonimato, gli appartenenti escono dall'anonimato, e la cosa più importante per ognuno è la propria identità personale, cioè l'assunzione in prima persona delle responsabilità di quello che fanno, oppure se invece sono fusi col gruppo, per cui la responsabilità di quello che fanno non è di ciascuno dei componenti del gruppo, ma del gruppo come insieme, l'unica possibilità è di farli guidare da un capobranco. Da questo punto di vista, cioè, come dire, non credo, anche se dico, penso di dire, qualcuno dirà che dico un'eresia, non credo che ci sia molta differenza tra un gruppo di poliziotti allo stadio e un gruppo di tifosi allo stadio. Non credo che ci sia molta differenza da questo punto di vista. E poi c'è differenza nel senso degli scopi. Il gruppo di poliziotti, altrettanto anonimi, non sono lì, sono lì come rappresentanti dello Stato, ma sono in gruppo senza il tenente che li comanda, senza il loro comandante. Ognuno di loro potrebbe sentire la situazione a modo suo e non agire come un solo uomo per difendere, per esempio, un bambino che sta per essere schiacciato dalla folla, tanto, oppure sì, per impedire una rissa tra tifoserie. D'accordo? Cioè funziona, anche lì funziona lo stesso meccanismo, ed è questa la ragione per cui quel meccanismo lì viene usato. Non bisogna meravigliarsi di questo. Quel meccanismo lì infatti viene usato perché non si riesce a fare in modo che le tifoserie non vengano guidate da un capobranco. Non si riesce perché sono branchi. O li trasformiamo in qualcos'altro, oppure inevitabilmente è così. D'altra parte, per andare contro un branco ci vuole un altro branco. Quindi, in definitiva, perché se un cittadino pacifico da solo, o in un gruppo che non è un branco, in cui ognuno ha la sua testa, la sua critica, la sua possibilità di agire con la sua testa e non tutti insieme, si mette a voler convincere il branco a fermarsi quando sta per scagliarsi contro un altro branco, non ce la fa. Bene, io direi che possiamo andare in musica. Il primo brano che arriva. Ricordiamo i contatti, perché io prima ho detto: siete tifosi, non siete tifosi, raccontateci il vostro modo di esserlo, cosa provate, cosa non provate, però non ho ricordato i numeri. Allora cominciamo col fisso 051 34 6458 per intervenire in diretta, oppure 333 180 94 94 per i vostri WhatsApp o SMS. Null of Dying, Gregory Porter, a fra poco. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests upon a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. Four flowers in my Asian vase is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. Window simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. No, that's dying for me. There will be no love that's dying for you and me. Oh, there will be no love dying here. No, not for me. There will be no love that's dying here. No, there will be no love that's dying here. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Torniamo in diretta. Buco? No. Abbiamo fatto buco? No, no. È già partita la musica. È già partita la musica. Allora, parlavamo di Branco. Quindi, da quello che si evince dalle tue parole, è la situazione di Branco. Aiuta l'individuo, diciamo, porta l'individuo a spogliarsi di se stesso in un qualche modo e soprattutto delle sue responsabilità individuali. Ho capito bene? Sì, serve perché le persone non avrebbero lo stesso, non avrebbe la stessa funzione essere tifosi se ognuno fosse tifoso per conto suo. Avrebbe una funzione completamente diversa, cioè ciascuno non si sentirebbe così potente a essere tifoso di una squadra se fosse solo a essere tifoso di quella squadra, no? Cioè, perché non basta questo? Non basta quando, certe volte basta, ci sono i tifosi individuali, ma sono una minoranza. Perché? Perché attraverso il gioco del calcio le persone rappresentano in modo simbolico, appunto appartenendo a una squadra e poi cercando di vincere, rappresentano l'esigenza aggressiva di dominio nei confronti degli altri. che non si può più rappresentare come si rappresentava una volta, appunto menandosi nei quartieri oppure facendo la guerra, così eccetera, ma si rappresenta in modo simbolico attraverso il calcio. Allora, o il calcio si trasforma, appunto si trova un altro modo per esprimere i sentimenti di aggressività e di dominio sugli altri, oppure se uno è uno individualmente si sente debolissimo a essere da solo contro il nemico, si sente molto debole, per cui è ovvio che ci si aggrega, nella maggior parte dei casi ci si aggrega. Poi ci sono quelli che vanno allo stadio da soli, ma vanno ad esprimere un altro sentimento, non sono quelli che ci vanno per esprimere la loro aggressività, ma ci sono quelli che vogliono, per esempio, vogliono vedere l'estetica del calcio, il bel gioco, cioè è un altro tipo. Io per esempio ti dico, conosco persone tifose, non individuali, che vanno allo stadio in gruppo, che hanno il loro gruppo di tifosi, che magari seguono la squadra in trasferta, eccetera eccetera, però non mettono in atto questo meccanismo anche come gruppo, cioè da gruppo non si trasformano in branco. Sì, perché questo vuol dire che quella appartenenza a quel branco funziona per gli individui che stanno dentro quel gruppo, cioè se è sufficiente ad esprimere le loro esigenze in modo simbolico e quindi non c'è bisogno di passare all'atto. Se tu, per esempio, se noi andiamo allo stadio in 50 e ci sfoghiamo abbastanza urlando arbitro cornuto, eccetera, eccetera, no? Che bisogno c'è di fare altro? Non c'è nessun bisogno di fare altro. Cioè si tratta di vedere, quando si passa all'atto è perché il carattere simbolico del gioco non funziona e incontra e si incontra puramente semplicemente, non in modo tradotto, rappresentato simbolicamente, ma si incontra l'impulso aggressivo così com'è, cioè così come si esprime nelle persone che ce l'hanno. Arriva un messaggio di Manu che dice: cosa rende piacevole fondersi nel branco? Non credo dipenda solo dal delegare la responsabilità al capo. E perché i branchi spesso si uniscono per esercitare violenza? Personalmente adoro andare allo stadio, il cuore mi batte all'impazzata quando il mio esultare spontaneo si fonde con quello di migliaia di altre persone, pur non sentendomi membro del branco. Come dire, se uno si sente membro del branco, come fa a esultare all'unisono? Non è possibile. Beh, dai, è come quando vai. No, non è vero. È come quando vai a un concerto che è bello cantare insieme agli altri, però mica ti senti branco. No, ma aspetta, è la sensazione che hai, esatto, di cantare in mezzo agli altri che ti fa diventare branco senza che tu te ne accorgi, cioè in modo inconsapevole. Certo. Quando tutti cantano. Un branco positivo. Aspetta, branco positivo. Branco però, cioè branco che funziona. Branco che funziona. Certo, positivo, in quel caso positivo. Cioè, perché anche l'aggregarsi per fare delle cose tutti insieme, in fondo è una cosa positiva, non è mica una cosa negativa. Se si fa una buona cosa, quando si fa una cosa cattiva, le cose non funzionano. Quando si vince funzionano, quando si perde non funzionano. Per esempio, ora la crisi da cui partivamo all'inizio è la crisi che deriva dall'esigenza di elaborare un lutto da parte di un tifoso. Esatto, adesso ci torniamo. Io voglio solo dire una cosa prima di andare in pubblicità. Dalle tue parole, quindi, togliamo la parola branco da solo una sfera di negatività. A cui di solito si parla del branco che fa violenza, del branco in assolutamente varianti. Assolutamente. Invece, no, se ho capito bene, certo, quando ci mettiamo in branco per difendere l'acqua siamo un branco positivo, tutti insieme perdiamo la nostra identità, di qualunque sesso siamo, di qualunque ceto sociale siamo, ci mettiamo insieme per difendere l'acqua, è un branco positivo. Non c'è dubbio. L'avrei chiamato collettivo, però. Sì, no, ma spesso però è un branco. Ok. Spesso però è un branco, perché la ragione per cui non si riesce a fare delle cose tutti insieme condivise, cioè per cui il collettivo non esiste, spesso è che non funzionano i meccanismi di aggregazione. Ora, i meccanismi di aggregazione ti fanno diventare un branco. L'hai mai visto una un gruppo di persone che hanno che perseguono uno scopo senza avere, senza avere dei capi? È impossibile. Quindi possiamo dire a mano che, senza magari rendersene conto, quando lei esulta e il cuore le batte perché sta esultando insieme ad altri, sì, non è branco anche lei in positivo. Cioè, certo, perché significa che non è che tu esulti e canti insieme agli altri perché sei nel branco, ma esultando e cantando insieme agli altri entri nel branco, ti fondi con gli altri. E dopo, e nel momento, non è che tu dici io là ci vado per conto mio, non appartengo a nessun branco, poi cantiamo tutti insieme e quello che succede a me quando per esempio vedo una partita di pallavolo, che io a un certo punto mi comincio a muovere con quelli, cioè anche se non gioco, in quel momento io non sono più guidato dalla mia individualità, in quel momento sono dentro qualcosa che va al di là di me. Dobbiamo andare in pubblicità, Willy, mi sbaglio? Andiamo in pubblicità, ascoltiamo gli Everything But The Girl, pubblicità. Bene. E poi dopo ritorniamo. Scriveteci, 333-180-94-94. Per parlare di calcio, pensa un po', chi l'avrebbe mai creso? No, infatti... Love boy, if you 16:38 minuti, torniamo assieme Radio Città Fugico, oltre la crisi, con i due Franceschi Clementoni e il nostro professor Campione. Dove eravamo rimasti? In curva, mi sembra, o in gradinata? Ma... in tribuna. In tribuna d'onore. Direi neanche no. Senti, va bene, abbiamo parlato delle dinamiche, il branco, eccetera. Voglio tornare al nostro edicolante che si voleva suicidare, perché... intanto mi domandavo, tu prima parlavi di stato di umiliazione, no? Perché la tua squadra va in Serie B, eccetera, eccetera. Ma è possibile che questo stato di umiliazione sia così forte da annullare tutto quello che sei tu? Quindi tutte le tue vittorie e le tue sconfitte, però legate alla tua vita. Ma se tu sei prevalentemente un tifoso, sì, dipende da quello che sei, no? Ho capito. Dipende da come ti identifichi, no? E per esempio io l'altro giorno al bar sono entrate due persone, il giorno dopo la retrocessione del Bologna, con delle facce lunghe, hanno preso il giornale sportivo che di solito leggono e hanno cominciato scuotendo la testa a dire una tragedia, non ci rialzeremo più, così eccetera. Cioè effettivamente, come dire, per chi si identifica con la sua squadra, per chi quando dice io sono... è importante per me essere un tifoso, quando la tua squadra perde, perdi anche tu. Quando la tua squadra retrocede, retrocedi anche tu. Quando la tua squadra viene umiliata anche tu. Quando la tua squadra non riesce a rimontare, non riesce a... cioè che mostra, viene, che c'è la disfatta, sei disfatto, la disfatta la subisci anche tu. E dall'individuale voglio passare al collettivo, perché vorrei parlare anche della disfatta o della crisi, dello stato di crisi di una città legata alla sua squadra cittadina, appunto. Entra addirittura in crisi il modello di città? No, entra in crisi. Innanzitutto, secondo me, entra in crisi, cambia l'atmosfera della città. Cambia l'atmosfera della città. Cioè una città con una squadra vincente è una città in cui c'è un'atmosfera, l'atmosfera che c'è in una cittadella vincente, cioè c'è l'atmosfera della vittoria, c'è l'atmosfera del successo, c'è l'atmosfera, cioè se una città si identifica con la sua squadra, ecco, per esempio Torino, quando ancora deve elaborare il lutto per la morte, quando è precipitato l'aereo con tutta la squadra del Torino. Non l'ha elaborato del tutto Torino quel lutto lì. Ci sono ancora gli anniversari, ancora ci si pensa, c'è bisogno di memoriali, c'è bisogno di rituali, c'è bisogno di ricordarselo, così eccetera. C'è ancora bisogno, no? Allora, per esempio, chiediamocelo per Bologna. Bologna quanto è legata, quanto si identifica con la sua squadra? In certi settori della città si identifica abbastanza con la sua squadra, no? Per cui, per esempio, a parte che ci sono anche elementi oggettivi in questo, cioè Bologna ha un colpo economico anche. L'economia della città ne risente. Ma soprattutto, secondo me, il primo punto è che ne risente l'atmosfera della città. Cioè, è come dire, è crollata la Torre degli Asinelli, no? Cioè, un simbolo... è un po', insomma, estremo. Un simbolo della città non funziona, è un simbolo di impotenza invece che un simbolo di potenza. C'è una città con una squadra... Che va, per esempio ci sono città, non so, l'Atalanta cos'è? Di Bergamo. Sì. Bergamo, d'accordo. Bergamo non è certo, cioè l'Atalanta è molto importante per Bergamo, no? Importantissimo, molto più importante che per Bologna. Cioè dipende dall'importanza che ha quella squadra nella città. Ecco, per esempio, Io non credo che Bologna si identifichi completamente con la sua squadra. È una delle città meno identificate con la sua squadra, no? Però molto spesso, come vanno le vicissitudini delle nostre squadre, mi vengono in mente anche quelle del basket, tanto per allargare il discorso, identificano anche uno stato di crisi economico. Mi spiego meglio, una debolezza delle proprietà e quindi della, della parte economica cittadina che dovrebbe sostenere quelle squadre. Certo, infatti c'è chi dice qual è la ragione per cui il Bologna è andato in B, perché non hanno speso soldi, se facevano una buona campagna acquisti non ci andava in B, no, perché li hanno venduti i calciatori invece che acquistarli, quelli buoni li hanno svenduti. Cioè, in definitiva c'è un problema, certo, cioè, non solo, ma chi sono i salvatori del Bologna? Chi chiameranno adesso? Chiamano Zanetti, quello del caffè, che forse salverà il Bologna. No. Allora, certo che c'è un aspetto economico della questione. È arrivato un SMS, siete andati a stuzzicare il perché di una retrocessione, adesso vediamo cosa scrivono. Arrivo. C'è Ste che ci scrive: ho visto Bologna profondamente in lutto per Dalla, questa volta non so, forse era annunciato, quindi l'atmosfera non è pregna di questo lutto. Io non paragonerei neanche le due cose. Non lo so. Addirittura? No, ma il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice, non so, ma secondo me sta facendo questo parallelo, come visto che si parlava di simboli della città, certo. Dalla è tanto simbolo quanto giusto. Il Bologna. Allora dice: non mi sembra che come simboli, forse sta dicendo la stessa cosa. E tra l'altro il simbolo Dalla e quello del Bologna si intrecciano abbastanza. Tra l'altro, non è che sono indipendenti l'uno dall'altro, ma secondo me ci sono parecchie città in una città, no? Cioè, secondo me, complessivamente Bologna non soffre tanto per questo lutto, perché la maggior parte delle città che compongono la città di Bologna, come dire, non si identificano col calcio, si identificano con la mortadella, si identificano col packaging, si identificano con la politica, si identificano con il godersi la vita. La Bologna, città, si identificano con la cultura e con la scienza, con l'università. Cioè, Bologna ha diverse identificazioni, no? Una delle identificazioni, secondo me la più popolare, è l'identificazione col calcio, quella meno intellettuale, quella meno tradizionale di Bologna, quella più sotterranea, quella più lì, secondo me c'è un certo lutto. Eppure tra i tifosi del Bologna possiamo enumerare molti appartenenti alle altre Bologne che dicevi tu, che può essere la Bologna universitaria, la Bologna politica, la Bologna culturale. Certo, ma non gli è venuto in mente al rettore di dire, come ha detto il sindaco, ci riprenderemo. Insomma, dai, non è successo che il Bologna è andato in B. Per certe sottocittà di cui Bologna si compone, non è un gran lutto. Invece io penso che sia un lutto per la parte popolare di Bologna. Quindi forse è un lutto per maggioritario, cioè per la Bologna, dal punto di vista della quantità dei bolognesi, probabilmente, ma dal punto di vista della rappresentatività, non credo. Ecco, per esempio, non mi pare che, a parte qualche cantante, ci siano poi, come dire, sfegatati tifosi tra i bolognesi più illustri. Sì, anche Prodi ha detto che bisogna risollevarsi. Anche Prodi ha detto che bisogna risollevarsi. Certo, quindi, ma sospetto che Prodi pensi all'economia. Sospetto che non abbia tutto questo. Penso che lui sia più per il ciclismo che per il calcio. Prodi sicuramente, però se si risolleva l'economia, sono poi le strutture economiche per sostenere anche la squadra, quindi di rimando. Musica? Vuoi andare in musica? Facciamo sì. Che bisogna si necessita anche di un risollevarsi della cultura sportiva per risollevare quello che è un attaccamento ai colori sociali in maniera più sana. Ma poi il Bologna è già stato in B, è anche tornato in A, quindi insomma. No, ma secondo me. Corsi quando una squadra va in B. È perché ha perso. Ha perso. Benissimo. Bisogna saper perdere, però. Sì. Non ce l'hai, è pronta questa. No, vabbè, sono pronta. Controlla bene, Francesca, non vorrei che Andrea avesse scritto su WhatsApp. No, non è Andrea. Ste che dice... Non sono sicuro abbia ragione per il discorso che facevi sulle fasce... dice, aspetta che ne sta arrivando un'altra. Non sono sicuro abbia ragione. Il Bologna ha un tifo molto presente nonostante una classifica spesso magra, ed confermo, è un pubblico molto trasversale, e secondo me c'è un sentire che vorrebbe la grande squadra per la grande città, e al contrario la piccola squadra fa frustrazione al cittadino. Così percepisco il sentimento calcistico degli amici bolognesi. I romanisti tifano la Roma, i bolognesi vorrebbero tifare Bologna. E poi aggiunge: il lutto per Dalla era certo un grandissimo lutto per la bella persona Lucio, il grande cantante, ma tanto tanto smarrimento per il grande bolognese, che ne dite? E qui siamo di nuovo sul discorso del simbolo, c'è poco da fare. Poi Lucio era un simbolo molto presente nella città, cioè era un po' come le due torri, se viene giù una delle due torri. Comunque... No, ma lì naturalmente bisognerebbe fare un'indagine approfondita, è un'impressione la mia che ci sia. So benissimo che il tifo è trasversale, così eccetera, però suppongo che in termini quantitativi sia più popolare che non degli strati. Quantomeno in termini di quantitativo di sofferenza. Anche forse. Perché io tendo a pensare ai bolognesi come allo spirito di Bologna. Io non sono bolognese, lo osservo un pochino dall'esterno, tendo a considerare, anche se sono ormai cittadino bolognese da sempre, tendo a osservare dall'esterno, e mi sembra con un certo distacco di poter dire che i bolognesi poi in fondo non attribuiscono grande significato ai giochi, no. Attribuiscono più significato ad altri tipi di successo, al successo economico. Sono concreti i bolognesi, no? Sono concreti, sono commercianti, no? Per cui va bene, forse sono più in lutto tanti perché, come dire, la prosperità di Bologna ne risente se andiamo in B. Questo lo capisco di più nello spirito di Bologna, nello spirito di una città mercantile, di una città profondamente mercantile nel suo, quindi anche un po' cinica rispetto alle cose, al tifo, da un certo punto di vista. Poi invece c'è il popolo, che è un'altra cosa rispetto allo spirito della città, che spesso il popolo è, come dire, anacronistico. Allora sì, allora, però è un'indagine che bisognerebbe approfondire. Sarebbe interessante, sì. È un'indagine che bisognerebbe fare. C'è invece un altro messaggio? Io no, vorrei arrivare alla conclusione, perché come sempre noi cerchiamo di di uscire dal tunnel oltre la crisi, e quindi la mia domanda la faccio molto semplice: come facciamo in modo che l'edicolante del nostro redattore non si suicidi, oppure come si va oltre e si evita questo tipo di, cioè si annulla questo tipo di pensiero? Allora, il lutto per il Bologna retrocesso si elabora come qualunque altro lutto, dipende dalla persona, da come si è legati a ciò che si è perso. Per cui le possibilità sono tre: o si sostituisce il Bologna con un'altra squadra più di successo, allora dice basta, che per un vero tifoso è difficilissimo. L'anno venturo tiferò Juve, va bene, ma ci può essere quello che dice: no, la mia Bologna è insostituibile. Allora bisognerà accontentarsi delle glorie del Bologna del passato, e allora forse l'anno venturo bisognerà andarsi a ripassare, a rispolverare, così eccetera. Oppure terza, un po' nostalgica però, sì, questa po', soluzione, certo, questa è un po' nostalgica. Oppure terza possibilità: il Bologna si risolleverà e anch'io posso fare la mia parte perché si risollevi il Bologna, e cerco di farla. Questa è quella che mi piace di più. Dipende. Anche se io non sono una gran tifosa, anzi per niente. Però se fossi una tifosa mi piacerebbe molto questa soluzione. della serie, lo vado a sostenere malgrado tutto e posso contribuire al suo successo. Lo vado a sostenere malgrado tutto. Mi chiedo se per caso il fatto che sia retrocesso non sia anche la responsabilità dei tifosi che adesso piangono tanto, no? Cioè, hanno fatto tutti la loro parte perché il Bologna non venisse retrocesso. Bella domanda. Bene. E direi che così possiamo concludere. Cosa dici? Dicendo viva il Bologna. Viva il Bologna. Viva il Bologna. Beh, certo. È partita anche Lisa Stansfield, che avremo a Bologna giovedì 29 maggio, e questa sì che è una grande vittoria per Bologna. This is the real thing. E con questo vi salutiamo. Ci vai al concerto? Ho già fatto l'articolino, vado al concerto, la voglio intervistare, farò delle giochi a premi, ricchi biglietti in palio per gli ascoltatrici e gli ascoltatori. E insomma, Radio Città Fujiko c'è. E con questo, dicevo, per la terza volta salutiamo e diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao Francesco, grazie. Ciao. What the people say, there's no use holding back desire.